Ben ritrovati, sono Livia Napolitano e questo è Nottetempo in Safar, viaggio a chilometro zero. Ancora Genova la protagonista, una città ricca di fascino e di storia che, come molte altre località italiane, è stata raccontata, visitata, amata da numerosi viaggiatori alle prese con il Grand Tour. Il Grand Tour, lo ricordiamo, era una sorta di viaggio di formazione che i rampolli d'Europa affrontavano per affinare la propria cultura. Si recavano quindi nelle città d'arte, imparavano il bon ton e tornavano nei propri paesi di origine con un ricco bagaglio culturale. La Liguria quindi terra di passaggio dal nord Europa verso il sud Italia diviene fonte di ispirazione di scrittori, poeti e filosofi che qui vi soggiornarono. Nietzsche, ad esempio, la descriveva appunto un sud che ha perso i colori. Ma in una sua lettera all'amico Gans disse: «Rendo grazie alla sorte che mi ha fatto capitare in quella dura, austera città durante gli anni della décadence». Più volte, e ancora oggi, abbiamo sentito attribuire a Genova proprio questo appellativo, austera. Perché negli occhi del viaggiatore che vi giungeva, risultava essere la città dei contrasti, dei grandi palazzi e dei miseri carruggi. È così che si chiamano i vicoli qui. Nel 1896 uno scrittore spagnolo scriveva che è proprio il marmo dei palazzi che la rende austera. Il nome di questo scrittore è Vincent Blasco Ibáñez, che la definisce così: «In nessuna parte d'Italia né del mondo si è usato tanto sino all'abuso questa pietra, il marmo. Preziosa e carissima in altri paesi, qui trattata con disprezzo dell'abbondanza, fino al punto da essere utilizzata anche per acciottolare le strade. I palazzi dei dogi, tutti splendidi al loro interno e tutti di marmo, a notte inoltrata, quando l'illuminazione pubblica comincia a venir meno, queste strade, strette con le loro pareti di marmo, sembrano risalire fino alle stelle». Chekhov, Camus, Flaubert, i poeti inglesi Lord Byron, Shelley, Dickens, Oscar Wilde amavano questi luoghi, in particolare la zona del Golfo Ligure, oggi denominato appunto il Golfo dei Poeti. Pochi ad esempio sanno che a Genova, presso il cimitero di Staglieno, è sepolta quella che fu la moglie di Oscar Wilde. Ed il poeta tornò in Liguria proprio l'anno successivo alla morte di sua moglie, quando ormai era esule della Gran Bretagna dopo la condanna per omosessualità. Davvero lunga la lista degli artisti che qui soggiornavano. Concludo citando la descrizione del musicista Wagner: «La mirabile impressione di Genova domina tutti i miei ricordi d'Italia. Per vari giorni io vissi in una vera estasi, incapace di seguire un piano prestabilito per visitare i capolavori della città. Ma abbandonai al godimento di questo nuovo ambiente in una guisa che si potrebbe chiamare musicale».